Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Tu, Chiara, dicevi poco fa una puntata terrena. Molto terrena. Territoriale. Molto, molto. Parleremo della Terra in tantissimi aspetti. Cominceremo con il linguaggio delle catastrofi, che sono mari, terremoti, fiumi. E poi invece parleremo di desertificazione, anche qui un aspetto che coinvolge la Terra in tanta parte della Terra, quasi 40% della superficie. Con un dato sorprendente per quanto riguarda il nostro paese. E infine un libro che, insomma, non poteva che chiamarsi Zolle. Incominciamo. Mario Tozzi è qui con noi. Ciao Mario. Ciao a voi. Ben trovato. Inutile presentarti, insomma, sei un divulgatore, soprattutto anche in trasmissioni televisive che ormai vediamo da anni. Ti chiamiamo perché, Chiara? Allora, è geologo anche, celeberrimo, perché in questi giorni partecipa al Festival della Comunicazione che si tiene a Camogli proprio in questi giorni, con un tema davvero interessante che abbiamo deciso di raccontare anche ai nostri ascoltatori. Il tema è questo, Mario: il linguaggio delle catastrofi. Detto così, insomma, uno magari è un po' enigmatico. Però, insomma, in realtà ci sono davvero, davvero molti aspetti interessanti a nostro avviso. Cosa intendi tu per la narrazione delle catastrofi? Inevitabilmente le catastrofi le conosciamo perché sono state raccontate. La più antica di tutti è il diluvio universale. Avrà forse 10.000 anni quel racconto e ce lo portiamo ancora presso. Quindi, il linguaggio delle catastrofi com'era e com'è cambiato? A suo tempo si associavano al mito, perché il mito era il racconto e dunque un tentativo di spiegazione, vorrei dire quasi poetica, del fatto anche scientifico, perché poi si è visto che per esempio un diluvio c'è stato veramente, anche se non è stata una questione di 40 giorni e 40 notti di pioggia, e venivano raccontate appunto con toni epici e di legame col divino, dunque punizione o consigliamento dell'autorità costituita, della religione, del dover stare appresso a qualcuno, crederti e dunque obbedire sostanzialmente. Quindi poi erano molto viste come punizioni divine. Sì, la punizione era sempre quella, insomma, coincideva con un fatto naturale catastrofico. Se vogliamo leggere in questo senso anche alcuni passi dei libri religiosi, non so, per esempio proprio della Bibbia, l'apertura delle acque del Mar Rosso, sarà stato un maremoto? Molto probabilmente sì. Poi sarà l'acqua rifluita indietro e avrà invece condannato gli egiziani piuttosto che far andare via gli ebrei. Ecco, questa cosa qui è sempre stata vista con un aspetto del nume che partecipava alle vicende umane e dunque precipitava nella catastrofe. Decisamente la più catastrofica di tutti era sempre il terremoto, proprio il vero stravolgimento. Naturalmente il terremoto invece ha anche un'altra lettura, perché quando interessava in antichità le popolazioni colpiva chi aveva qualcosa, cioè palazzi e altre proprietà, mentre chi non aveva niente ne risultava quasi immune quindi certo. poteva veicolare degli stravolgimenti sociali. Sì, ecco, tu parli di antichità, ma forse questi significati che vengono dati alle catastrofi non sono poi del tutto vecchi. Superati. Non so se sei d'accordo. Negli anni. Due esempi che si possono fare sono: uno italiano nella storia del Risorgimento, quando venivano fucilati i patrioti risorgimentari nel 1833, quegli anni lì, il duca d'Este e l'arcivescovo gli addossavano anche la colpa dei terremoti che erano stati in Pianura Padana presenti, poi abbiamo visto tristemente ribaditi nel 2012 in Emilia Romagna, quel tipo di terremoti sì. Lì. Ma questa è una roba, l'hai scoperta tu questa cosa? Cioè... Dicevo, su questa cronaca dell'Italia ha una registrazione di terremoti molto lunga, perché ha 2000 anni e passa di storia, dunque si trovano episodi di vario tipo. Questo qua mi ha colpito molto, perché quando andavamo a rivedere il terremoto appunto del Ferrarese di 3 anni fa, dice non c'era mai stato, siamo tornati a 500 anni prima, e poi ancora prima, e si è visto che durante il tempo negli editti colpevolmente i patrioti, oltre a stravolgere l'ordine costituito, avevano causato questo terremoto e dunque era giusto passarli per le armi, una cosa che si ripeteva per esempio con i regimi totalitari, soprattutto diciamo di carattere teocratico, religioso. Certo. Ma questo vale anche un po' per le alluvioni, diciamo, quasi, e per il vulcano. Molto spesso in antichità non si conosceva il fatto che una montagna fosse un vulcano, per esempio il Vesuvio, solo Strabone l'aveva nominato come tale, gli altri romani non, non, ne sapevano nulla. Quando arriva e coglie in quel modo gli abitanti di una zona felice, la Campania Felix, dunque una zona felice, tra le altre cose naturalmente c'è chi si è posto anche a quel tempo il problema della presenza di un nume. Però la descrizione fatta a suo tempo dalle lettere di Plinio a Tacito, eccetera, è ancora invece una descrizione molto cronachistica, non ha quasi una partecipazione, nonostante invece il coinvolgimento personale, ed è tutto sommato molto più misurato di tante altre descrizioni. Quante volte abbiamo sentito il vulcano killer, la montagna assassina, l'onda che uccide? Ecco, stavo facendo proprio riferimento a questo, nel senso che anche i giorni nostri, ecco, senza scomodarci troppo, andare a vedere nel passato, anche adesso ci sono un po' di queste, come dire, visioni un pochino antropizzate del fenomeno catastrofe. Si accusa la natura, no? Ma la natura non è né buona né cattiva, farà semplicemente il mestiere suo, fa quello che deve fare, dunque non c'è questo connotato che invece a noi in qualche misura piace dare per poterci scaricare dalle nostre responsabilità, perché vorrei ricordare a tutti, lo predico da sempre, le catastrofi naturali non esistono, esiste soltanto la nostra incapacità di convivere con la nostra storia naturale che ci dovrebbe insegnare quello che è successo e con l'ambiente in maniera armonica, quello esiste, diventano catastrofici gli eventi naturali per colpa nostra. L'unico evento che è veramente catastrofico, che indipendente dagli uomini, è l'impatto con un corpo celeste. Quello, diciamo, non ci si può fare niente. Molto poco, ecco, insomma, ne abbiamo fatto, ma tutto il resto siamo noi che esponiamo persone e beni al rischio naturale. Poi, se ci pensate bene, guardando un planisfero, la gente vive praticamente solo dove ci sono gli eventi catastrofici, cioè dove ci sono terremoti, vulcani, tornado, uragani, cicloni, perché quelle sono le fasce attive della Terra lungo le coste, sì. E quindi c'è una ragione, diciamo, specifica, lungo la costa si vive comunque meglio, ci sono i fiumi, e poi perché il vulcano ti porta al terreno fertile, materiale da costruzione, tanti motivi in antichità per vivere in quei posti, ma sembra quasi che lo scegliamo apposta, di vivere nei posti più pericolosi del pianeta, all'interno dei continenti, che è quello più tranquillo da un punto di vista geologico, non ci sono terremoti, non ci sono vulcani, quello è quasi il deserto, in Siberia, nell'interno del Brasile, piuttosto che nell'interno australiano, canadese, non ci vive quasi nessuno, quasi tutta la popolazione della Terra sta nei posti dove avvengono gli eventi naturali, è chiaro che questi diventano catastrofi, sì. Direi matematico. Cioè certo. Tu dici, se riempiamo la costa indiana di luoghi di villeggiatura, di resort e via dicendo, è chiaro che lo tsunami quando arriva, e che in fondo è entrato dentro di 100 metri, 200 metri, non di più, fa un disastro. Ecco, quello dello tsunami del 2004, lo tsunami di Santo Stefano, è esattamente l'esempio più paradigmatico di tutti. Tu quei posti non li hai abitati prima, infatti le popolazioni locali, che il linguaggio delle catastrofi lo conoscevano oralmente, se posso permettermi, col cavolo che vivevano lungo la costa, si ritiravano sempre all'interno e contavano le maree. Dunque, quando hanno visto ritirarsi il mare in maniera impropria rispetto alla sequenza, si sono subito allontanati, subito, certo. lo sanno, perché quella coscienza popolare dell'evento naturale ce l'hanno tramandato dalla notte dei tempi. Noi invece, con tutte le nostre tecnologie, pensiamo che basti costruire un albergo di cemento sul mare per poterci godere la vacanza, e oltretutto obblighiamo a vivere invece in casupole di legno coloro che servono in quegli alberghi lì, per quello fa 250.000 morti. Un'ultima domanda, Mario, a tuo avviso, secondo te, il linguaggio delle catastrofi potrebbe essere in qualche modo ancora modificato affinché sia più efficace anche nella comunicazione in qualche modo del rischio verso la popolazione? Dovrebbe esserlo, perché noi adesso, solo 20 anni fa, il primo piano di evacuazione del Vesuvio, anzi di Esodo, veniva deriso, la gente toccava gli amuleti, non faceva le esercitazioni. Oggi credo che, a forza di parlare di questo aspetto e ricordare che è un vulcano attivo, eccetera, una maggiore coscienza si è determinata e qualcuno sa di più che cos'è una camera magmatica, certo. O un agente del rischio. Ecco, in questo senso probabilmente qualcosa è cambiato e cambierà ancora. Va bene, grazie Mario, buon grazie lavoro e buon festival, ciao. Arrivederci. Ciao, ciao Mario. Sulle strade succederà qualcosa? Adesso ce lo dico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Beh, l'avete sentito anche nei titoli, certo fa un po' sorprese il fatto che si possa parlare di desertificazione anche qui da noi, sì. In particolare vedremo in Devo Sardegna. Dire che questa puntata credo che sia molto interessante, perché cerchiamo di prendere la Terra su diversi punti, sì. Di vista. Prima abbiamo parlato di catastrofi con Mario Tozzi, ora invece parliamo di desertificazione in Italia, ecco, questa è la cosa più impressionante. E poi sì. Dopo non vi anticipiamo nulla. Do solo due numeri per inquadrare narrare un po' il concetto dal punto di vista mondiale, internazionale. Si è appena tenuto un convegno a Expo organizzato da i più importanti centri di ricerca italiani, quindi CNR, ISPRA, Enea e CRA, che è il centro di ricerca sull'agricoltura, e hanno dato dei dati piuttosto impressionanti. Insomma, la desertificazione nel mondo occupa circa il 40% della superficie terrestre e coinvolge 2 miliardi di persone. Ora, i numeri sono impressionanti, ma parlando dell'Italia i numeri sono altrettanto impressionanti. Quindi abbiamo pensato di invitare Anna Luise, diamo il benvenuto, benvenuta. A Mebius. Grazie, buonasera. Lei è responsabile del settore strumenti di sostenibilità all'ISPRA. Sì. E insomma, lasciamo a lei l'onere di raccontarci insomma quali siano i numeri che coinvolgono, insomma, che raccontano la desertificazione anche nel nostro paese. Qui da noi. Sì, ovviamente per desertificazione non dobbiamo pensare all'avanzata del deserto, che è un fenomeno diverso, si chiama anche desertizzazione. Dobbiamo pensare a un terreno, a un territorio, al suolo di questo territorio che diventano improduttivi, cioè non sono più capaci di reggere la vita. Mm. Quindi significa che non riescono a produrre in prima linea quello che ci viene subito in mente, cioè prodotti agricoli, ma significa foreste, significa prato, significa anche benessere visivo, ma anche poi di regolare i flussi d'acqua, consentire alle risorse idriche di essere conservate e nello stesso tempo ben indirizzate. Ma dov'è che siamo peggio messi in Italia? Sì, infatti. Dunque, i vostri numeri sono abbastanza impressionanti, soprattutto insomma, per le regioni del centro-sud. Le regioni del centro-sud, allora, è stato calcolato, noi abbiamo parlato intorno al 30% di aree che hanno una sensibilità molto alta, ma con un altro 30% di aree su tutta Italia, diciamo, che hanno una sensibilità visibile, ecco, diciamo, non ancora minacciosa, ma sicuramente visibile. Le regioni italiane in cui abbiamo un territorio molto sensibile, una percentuale di territorio molto sensibile, superiore al 30% del territorio, cioè un terzo, sono decisamente la Basilicata, le Marche, che non sono molto al sud ma hanno problemi di erosione, uh-huh. Il Molise, per lo stesso motivo, Sicilia, molto per indisponibilità. La Sicilia è molto elevata, addirittura nei vostri rapporti parlate di una potenzialità del 70% di aree coinvolgibili. Potenzialità sì, poi Sardegna, Puglia e alcune zone in Emilia Romagna. Uh-huh. Io vorrei chiarire una cosa, la definizione, come dire, canonica, che è quella che è accettata e definita dalle Nazioni Unite dopo i soliti lunghi dibattiti, è che la desertificazione è il degrado del territorio e del suolo nelle zone aride, semiaride e subumide secche. Non abbiamo più tantissimo tempo, però vorremmo capire che cosa si può fare, visto che appunto le regioni che le ha nominato sono la stragrande maggioranza, ecco, e sono anche quelle più produttive, perché l'Emilia Romagna, la Puglia, la Sicilia, esatto, ecco. L'Emilia Romagna ovviamente parliamo di certo. Piccole aree. Perché? Perché la desertificazione è causata ovviamente da scarsità idrica, ma non è solo quello, ma anche sono le tecniche agricole che vengono usate nei territori che sono iperproduttivi, troppo stressanti. Infatti io quando parlo di sviluppo sostenibile dico sempre che lo sviluppo sostenibile è una questione di equilibrio tra fattori di pressione e fattori di impatto, cioè cercare dei punti di equilibrio senza stressare le risorse naturali, senza dover per forza mangiare i peperoni a Natale. Anna Luise, una volta che il guaio è fatto, cioè abbiamo dei terreni degradati, si può recuperare, non dico tutti, ma ci sono dei casi che si riescono a riprendere e farli ritornare vitali? Certo, naturalmente dipende dal grado di degrado, ma sicuramente la desertificazione significa che il contenuto organico del suolo diminuisce, quindi il ripristino di questo contenuto organico con concimi naturali, per esempio, con sostanze non chimiche e violente come quelle che le hanno distrutte, può essere un ottimo punto di avvio, come la protezione dall'erosione eolica, mm-hmm, attraverso la costruzione di piccoli confini attraverso uso di siepi, sì, che dividono le varie aree coltivate, ma fungono anche da barriere antivento. L'abbassamento del contenuto di sali, la salinizzazione è un altro di quei fenomeni che distrugge. Sì, quindi per esempio la rotazione delle culture, importantissima è la rotazione delle culture, la riduzione del carico animale, è tutta una serie di pratiche che tutte insieme un po' per volta con equilibrio e con la consapevolezza di doverle misurare di volta in volta possono aiutare. Anche con pazienza, con pazienza, perché ci sembra di capire che non è una roba di un anno e si recupera. Bisogna non è una roba di un anno che si recupera, non è una roba di un anno che però si distrugge, quindi certo. È anche vero che i tempi bilanciati possono aiutare moltissimo. Ok, cioè i numeri che dicevamo prima in qualche modo possono essere ridotti, insomma, avendo un po' di un approccio, come dire, sistematico e pensato e ragionato. Le Nazioni Unite ci chiedono di fare un piano di azione nazionale di lotta alla desertificazione. L'abbiamo fatto a fine 99, non è stato del tutto esaurito, ma doveva essere adeguato. Noi speriamo che ciò avvenga in tempi più brevi possibile. Va bene. Allora davvero buon lavoro, professoressa Luise. Grazie. Grazie, buona ricerca. Arrivederci. Continuiamo a parlare di territori, di terreni, per un libro che, il titolo è... Il titolo la dice lunga, diciamo. Zolle, storie di tuberi, graminacee e terre coltivate. L'autore Stefano Bocchi, che è qui con noi. Buonasera, Bocchi. Benvenuto. Buonasera a voi, buonasera. Insegna agronomia e coltivazioni erbacee presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali qui all'Università di Milano. Poi lei sta facendo qualcosa anche ad Expo. Sì, sono il curatore scientifico del Parco della Biodiversità in Expo, che è uno dei padiglioni tematici. Quando noi parliamo di libri cerchiamo di non fare la sintesi totale in pochi minuti, che diventa sempre ridicola, e scegliamo un episodio emblematico, però in generale il libro... Sì, ma io direi un po' raccontiamolo come una sfida, perché parlare di agricoltura nei 10.000 anni di sviluppo in meno di 200 pagine non è facile. Diciamo, è stata una sfida, in modo tale da dare al lettore una prospettiva e una profondità sufficienti, ma non richiedere più di 4-5 giorni di lettura. È stata una scelta di episodi particolarmente significativi. Sì, lei ha proprio selezionato delle storie, storie dei protagonisti, esatto, dell'agricoltura. Sì, uno, esatto, che ci ha attirato particolarmente è la storia, sì, ovviamente, del tubero più noto di tutti, che è la patata. Ecco, vogliamo parlare di questo per far capire in generale come è impostato il libro. Questa patata va avanti e indietro per i continenti, è piena di storie affascinanti, alcune che non immagina. Da dove vogliamo cominciare? Una delle storie che abbiamo imparato noi è che prima si mangiavano le foglie e non il tubero. Ma com'è questa storia? Non riuscivano a capire qual era la parte buona? No, mangiavano il frutto e anche le foglie, ma soprattutto il frutto. E le parti verdi, ma anche nel frutto della patata, c'è un composto che proprio non è particolarmente buono, anzi è un alcaloide tossico, come viene detto. Perché tra l'altro il frutto della patata, bene, dobbiamo forse qui specificarlo per i non addetti, il frutto della patata non è il tubero. No. Ecco, esatto, cioè, esatto. Questo è interessante. Quindi noi europei eravamo abituati male, cioè pensavamo che i frutti fossero quelli commestibili di una cultura, invece quando arriva la patata non sapevamo che veniva mangiata, perché si dice nel libro appunto che era un po' lo strumento che veniva utilizzato per alimentare gli schiavi, quindi la tratta degli schiavi, piuttosto che i carcerati, piuttosto che, insomma, le classi più povere. Quindi veniva associato inizialmente questo cibo con condizioni molto povero, di estrema, estrema povertà, quindi nei salotti più ricchi o comunque presso le persone più così agiate veniva snobbata. Sì, questa è una storia che ogni tanto si ripete in molti paesi. Anticamente era il pesce, per esempio, no? Che era considerato Anche. Oppure pensiamo alla quinoa, in questi giorni in Europa sta diventando un po', come dire, l'ultima moda. Un tempo veniva considerato il cibo della povertà, addirittura il cibo del diavolo veniva detto dagli spagnoli, e invece adesso lo scopriamo come un cibo molto interessante che viene anche pagato parecchio nei nostri negozi. Vabbè, però a un certo momento qui si scopre che invece il tubero è buono. Si scopre però per un caso fortuito, possiamo dire, cioè questo Parmentier che viene appunto ricordato, partecipando alla guerra dei sette anni, era un agronomo, quindi a metà del Settecento, venne imprigionato e in prigionia venne alimentato, quindi i carcerieri alimentavano appunto i carcerati con patate, quindi lui apprende francese, anche un po' così, che frequentava anche gli ambienti nobili più ricchi, apprende che la patata appunto non è un tubero e si deve mangiare appunto il tubero, e come tale può salvare la vita, nel senso che può alimentare per lunghi periodi e quindi risolvere il problema dell'alimentazione. Quindi Parmentier si innamora di questo tubero e quando viene scarcerato si mette subito in contatto con Luigi XVI e organizza appunto questo pranzo famoso, anzi questa cena, con fiori di patata che erano già presenti nei giardini più belli europei, ma soprattutto sì, perché venivano, come dire, apprezzate le piante, soprattutto questo fiorellino bianco. Fa un fiorellino, infatti, abbastanza esotico. Modesto, tra l'altro, piccolino, bianco. Sì, però era esotico, quindi veniva da fuori, quindi il nobile si vantava di avere, apprezzava e arricchiva di queste cose esotiche. E a quel punto, se la mangia il re, si diffonde. Esatto, la mangia il re, si diffonde, si comincia anche a capire come prepararla, come cucinarla, eccetera, e parte. Quindi dall'Ottocento in poi, possiamo dire, comincia veramente la diffusione. Ah, però dobbiamo arrivare all'Ottocento, Sì, diciamo fine Settecento, perché prima appunto era conosciuta come alimento, ma dalle classi più povere. Sì, poi è diventato uno degli ingredienti più duttili in assoluto della nostra cucina, perché viene utilizzato praticamente dall'antipasto al dolce. Assolutamente sì. Potremmo anche concludere che la patata è fondamentale nella storia degli Stati Uniti, perché con la crisi, no, della patata, esatto, in Irlanda. Metà Ottocento appunto che scoppia questo caso, per estrema semplificazione appunto delle colture, anzi in alcuni casi, in alcune aree c'era solo patata e c'era solo una varietà, no? La Luper. E quindi sono bastati 2 o 3 anni di attacco di questo fungo micidiale per azzerare i raccolti e per far sì che 1 milione di irlandesi dovessero poi cercare altrove, soprattutto negli Stati Uniti, come diceva, la propria nuova vita, per non morire di fame. Beh, allora ripetiamo il titolo: Zolle, facilissimo, Stefano Bocchi, e l'edizione è Raffaello Cortina, editore. Va bene, grazie davvero Bocchi, buon lavoro. Buon grazie, Expo grazie anche a voi, altrettanto. Arrivederci. Saluti, arrivederci. Avete mai visto un leone che fa una risonanza magnetica? Ah, Federico, fai riferimento alla gallery che abbiamo da poco pubblicato sul blog di Mebius. Vogliamo ricordarvi i riferimenti. Basta andare sul sito www.radio24.it, trovate il nostro blog, all'interno del quale trovate un po' di nostre dalla gallery, a qualche intervista in più, alle versioni integrali anche delle interviste che sono appena andate in onda. Quindi ricordatevi, c'è il leone che blog fa la di Mebius, e c'è il leone e anche la tigre e anche un pipistrello. È un cammello che arriva in clinica. Sì, è una gallery molto ampia e divertente. Va bene, buona settimana a tutti. E a tutte.